Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Avete presente l'attrito? Forse pensate che sappiamo tutto di questa cosa e invece non è così. In questa puntata ve lo spiegheremo. Ascoltiamo i titoli insieme e benvenuti a Mebius. Umami, questo sconosciuto. Oltre al gusto dolce, salato, amaro e acido, esiste il quinto gusto, a metà tra il parmigiano stagionato e il dado da brodo. Può sembrare strano, ma dobbiamo ancora comprendere come funziona l'attrito. Due ricercatori italiani hanno dato un contributo fondamentale. All'Enea si è brindato con calici a prova di etilometro. L'ente di ricerca ha infatti messo a punto un'innovativa tecnica per sottrarre alcol al vino. Ha spento qualche giorno fa le sue prime 10 candeline. Agenda 21, l'associazione dell'ONU per lo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente. Per l'occasione è stato siglato il patto dei sindaci italiani. Io Masai perdo la terra. È il nome della mostra inaugurata a Milano sul problema della desertificazione che costringe i Masai a diventare profughi ambientali nelle loro stesse terre. L'avete sentito anche nei titoli di questa trasmissione, si pensa di sapere tutto di una cosa che continua ad accadere intorno a noi, credo, costantemente in ogni momento della nostra vita, cioè l'attrito tra qualcosa e qualcos'altro, e invece non è vero, bisogna ancora che la scienza capisca delle cose abbastanza fondamentali. Per parlare di questo aspetto curioso mi servirò di Erio Tosatti. Buonasera Tosatti. Buonasera. Della SIS di Trieste e anche del Centro Internazionale di Fisica Teorica, sempre a Trieste. Ecco, lei Tosatti, insieme a Elisa Riedo, che è una ricercatrice brava italiana, ma che però è al Georgia Tech di Atlanta, quindi è negli Stati Uniti, avete dato un contributo piuttosto importante e interessante nella comprensione di ciò che è l'attrito. E quindi certo la prima cosa che ci sorprende è questa, insomma, voglio dire, c'è il classico caso in cui noi addirittura proprio lottiamo con l'attrito, un bel trasloco dove ci sono questi scatoloni pieni di roba che a un certo momento si trascinano sul pavimento. Sembrerebbe che noi di ciò sappiamo tutto, mentre invece non è così. Non è così, sono centinaia di anni a partire da Leonardo da Vinci che diciamo, ci sono le leggi fondamentali dell'attrito che studiamo tutti a scuola, però nessuno spiega da dove vengono quando si va a guardare nel piccolo. Due corpi che si toccano molto in piccolo, cosa succede lì in piccolo non lo sappiamo esattamente. Ecco, infatti lei ha incominciato a dire piccolo, io aggiungo molto piccolo, perché questa vostra ricerca è andata veramente, lavora diciamo quasi nell'infinitamente piccolo. Sì, certo, l'attrito, noi siamo portati a toccare con la mano lo scatolone e il pavimento e dire beh, è più o meno ruvido, si farà più o meno fatica. Le cose non stanno così, insomma, l'attrito è qualcosa, come mi diceva lei preparando l'intervista, di puntuale, no? Ci spieghi un po' questo aspetto. Sì, anche due oggetti che sembra che si tocchino a perfezione, in realtà si toccano per un centesimo, un millesimo della loro superficie, laggiù si toccano facendo un contattino di dimensioni di un nanometro, cioè un miliardesimo di metro, che è una quantità impercettibilmente piccola, non è neanche visibile al microscopio. Ci vogliono enormi moderni strumenti a punta, che sono quelli che hanno aperto il campo. Ed è lì, in quella direzione, che voi avete lavorato. Che cos'è che è venuto fuori? Come riusciamo a spiegare? Intanto che tipo di, ma possiamo chiamarli oggetti, che tipo di oggetti avete usato per fare attrito? Quando si studia un fenomeno, scegliere un modello semplice, i nanotubi sono un modello semplice con cui lavorare, di cui si sa tante cose. Sono piccolissimi i nanotubi, sono dei tubi ma piccolissimi. Sono dei tubi di carbonio, dei fogli di grafite arrotolati come sigari e sono piccolissimi, circa appunto un nanometro di diametro, una cosa così, molto piccoli, si appoggiano su certe superfici, poi si va giù con una punta circa delle stesse dimensioni e si grattano sopra in lungo, in largo, si può far passare corrente, si possono prendere delle immagini. L'attrito si misura sfregando queste punte in lungo e in largo attraverso questo nanotubo appoggiato e per andare a vedere come reagisce e quanta forza ci vuole per grattare. Tutto quindi il vostro scatolone del trasloco è il nanotubo? Sì, il nanotubo è appoggiato, la punta gratta sopra e ci vuole una certa forza per farla scorrere. La sorpresa è stata che facendolo scorrere per il lungo e per il largo Elisa e i suoi collaboratori, fra l'altro ce ne sono di Università di Amburgo, di qua, di là, ha trovato che scorrere per il lungo o per il largo non ci vuole la stessa forza, mentre un foglio di grafite si pensava che doveva essere circa uguale. Cioè per il lungo, allora, se noi lo pensiamo come un piccolo cilindro, diciamo da una parte rotola e dall'altra ovviamente no? Esatto, infatti lei ha già indovinato in un certo senso la spiegazione. Se uno una matita cerca di farla scorrere per il lungo, non scorre, ma per traverso quella cerca di rotolare. Rotolare non ci riesce veramente perché questi qua sono piuttosto incollati sul pavimento, diciamo, però sbatacchiano di qua e di là, si deformano un po' come un uovo tenero e sono quindi più soffici in senso trasverso che longitudinale. Sì, e quindi la sorpresa in che cosa sta? La sorpresa sta che questo attrito addizionale dovuto alla sofficità che il tubo abbia attraverso è molto grande, è grande quanto quell'altro, diciamo, intrinseco di un foglio di grafite. Insomma, correre su un pavimento duro, correre su una spiaggia di sabbia bagnata si fa una bella differenza di fatica. Anche qua con il tubo, noi non sapevamo prima però che Elisa l'avesse visto, poi ci siamo fatti venire l'idea che poteva essere questo fatto e da questo, a teoria, abbiamo fatto questo test, simulato la punta con un tubo appoggiato su una superficie, abbiamo visto questo tubo fare delle evoluzioni molto morbide, molto soffici e molto costose in termini di energia. Insomma, se io devo spostare un cartone è meglio se c'è il fondo duro sul duro, se è soffice aiuto perché il sprofonda il pavimento si fa, bisogna metterci più fatica, insomma. Questa era una cosa che potevamo anche immaginarci, ma che in questo caso possiamo misurare esattamente. Però, e qui diventa un po' difficile spiegarlo in trasmissione, da questo tipo di scoperta lei mi diceva che ne avete tratto qualcosa di ancora più importante, perché usate l'attrito per riuscire a fare differenza tra dei materiali che sembrano assolutamente uguali, mentre invece con questo sistema riuscite a fare delle differenze significative. Sì, questa è una proposta che noi abbiamo fatto basata su questa teoria e che speriamo di poter verificare. Quando questi oggetti, questi tubi, sono così piccoli e non si riesce a vederne la struttura usando semplicemente la topografia, e invece l'attrito potrebbe rivelarci la struttura in maniera indiretta, e questa è un po' la maniera con cui i ciechi leggono le scritte in Braille, tastando, diciamo, ciecamente sentendo l'attrito che le dita fanno, si può capire cosa c'è scritto sotto, cosa è fatto, e questo ha una sua importanza, perché riuscire a svelare la struttura di qualcosa che è così piccolo e inaccessibile in altri modi non è banale. I tubi poi servono per fare tante cose, bisogna capire che erano tubi, eccetera. Quindi questa è l'idea di proiettarsi verso una cosa che non è ancora stata fatta. Elio Tosatti, grazie, auguri anche a lei e a Elisa Riedo per il proseguimento delle vostre ricerche. Grazie mille, buonasera a tutti. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. E ritorna come ogni anno il nostro quiz. Siete pronti? Dunque, siete sulla Luna e volete scrivere sul terreno, c'è un sacco di polvere fine sulla Luna, è facile scrivere, insomma. Volete scrivere "ti amo" al vostro fidanzato o fidanzata. Quanto devono essere alte le lettere perché lui, lei le veda ad occhio nudo stando sulla Terra? Tre risposte. 110 chilometri, ci scriverete 110. 50 km ci scriverete 50, 15 km ci scriverete 15. Che cosa si vince? È il solito libro, questa volta è Il mondo prima della storia, dagli inizi al 4000 a.C., di Jan Tattersall, edito da Raffaello Cortina Editori. O ci manderete un sms al solito numero, anche questo, 349-238-6666. In collaborazione con IBS.it. E adesso state per sentire le voci di Totò, Lelio Luttazzi e di un imprecisato bambino, e sono voci che arrivano da vecchi caroselli. C'entrano con cose di scienza? Sì, c'entrano, come vi spiegherà Chiara Albicocco. Adesso mi faccio un bel brodo, a prescindere, ma io me lo faccio doppio, è ovvio, no? Doppio sapore per minestre e pietanze, per le minestre, per il risotto, per lo stufato. E se vi resta ancora un dubbio? Tanto semplice provare, la minestra piace il doppio, con il doppio brodo. Se un dado fosse troppo forte, sai di cosa saprebbe il tuo minestrone? Di dado. E il tuo pollo? Di dado. Ehi papà, guarda, un pollo! Un dado che sa fare il dado. Pazzi per la musica? Direi piuttosto cose da pazzi. Ma... è saggio preferire brodi. Per le minestre, la saggia donna di casa preferisce sempre i famosi prodotti per brodo. Sono passate alla storia tra il carosello interpretato da Totò e gli slogan tormentone degli anni Ottanta. E le pubblicità dei dadi sono davvero indimenticabili, ma chissà perché il dado come prodotto alimentare non ha mai riscosso molti favori. Ci sono state addirittura battaglie contro l'utilizzo del dado in cucina, tante sono state anche le cose che si sono dette sulla sua composizione. Ma forse non molti sanno che il sapore di dado è considerato il quinto gusto, a pari del gusto dolce, salato, amaro e acido, il cosiddetto umami. E proprio in questi giorni, in occasione della Notte Bianca dei ricercatori, all'Università degli Studi delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo, è stato messo a punto un test sensoriale per rilevare l'umami. Ecco, ci facciamo spiegare ombre e luci di questo misterioso sapore dalla ricercatrice che ha messo a punto il test. Benvenuta Luisa Torri. Buonasera. Ecco, lei è docente di analisi sensoriale presso l'Università di Pollenzo. Ecco, ora ci deve spiegare innanzitutto che cos'è questo umami e poi entriamo nel merito del vostro test. Sì, l'umami è il quinto gusto, quindi oltre acido, dolce, salato e amaro, da qualche anno si è riconosciuto a livello scientifico anche un altro gusto che è appunto definito umami. Il gusto umami ha un'origine giapponese sia come nome che come luogo di scoperta. Infatti già nel 1908 il dottor Ikeda aveva isolato dal brodo di alghe marine il glutammato monosodico. Questo composto è il maggior responsabile di questa sensazione umami, che viene chiamata, viene tradotta in italiano come saporita, e che è quella che conosciamo tutti, che è la sensazione data dal dado da brodo, in quanto il dado è costituito per la maggior parte da glutammato monosodico. Però in realtà questo gusto è contenuto, diciamo così, anche in altri alimenti che noi consumiamo quotidianamente. Esattamente. La sensazione umami può essere percepita in molti altri alimenti della cucina tradizionale italiana, come per esempio i formaggi, tra cui il più importante è il parmigiano reggiano, perché è quello che contiene la maggior quantità di sostanze umami, ma anche altri formaggi come l'emmental. L'umami può essere percepito anche nel pesce, nella carne, soprattutto in quella di pollo, ma anche in quella suina e in quella bovina, e è presente anche in prodotti vegetali, primo tra tutti il pomodoro, poi asparagi e altre verdure. Quindi lei ci diceva che è fondamentalmente composto dal glutammato. Ecco, il glutammato in realtà è sempre stato visto come un composto chimico negativo, invece in realtà spieghiamo di che cosa si tratta. Sì, il glutammato monosodico è un sale, così come lo è il cloruro di sodio. Ecco, niente più, niente meno. Potrebbe essere utilizzato come correttore di sapidità, come il sale, insomma. Infatti è quello che succede, viene usato come esaltatore di sapidità, perché il sale dà una sensazione di salato, che quindi diciamo è uno degli altri quattro gusti. L'umami dà il gusto, il quinto gusto, che quindi è ben diverso dal sale, però diciamo che svolge una funzione sinergica con il sale. Il glutammato monosodico associato al sale può incrementare la sensazione di saporito del prodotto alimentare. Il glutammato monosodico, così come altri composti, tra cui un altro paio di esaltatori di sapidità, vengono aggiunti a molte salse, condimenti e snack proprio per aumentare il sapore degli alimenti. viene utilizzato tantissimo nella cucina orientale, anche perché nella cucina orientale ci sono molti alimenti che hanno il sapore umami, come per esempio la salsa di soia, che viene poi usata per condire molti piatti. Ecco, infatti diciamo che nelle tradizioni culinarie dell'est è molto più conosciuto e molto più diffuso. Sì, è molto più conosciuto anche come nome, nel senso che la popolazione asiatica abitualmente utilizza il termine umami, e questa è la grossa differenza rispetto invece agli europei e al mondo occidentale, in cui pochissimi conoscono questo termine. Cioè, probabilmente noi tutti conosciamo la sensazione data dal glutammato monosodico e la percepiamo, ma non la chiamiamo con il termine umami. Ecco, ma noi in bocca abbiamo una zona precisa sulla lingua deputata alla percezione di questo gusto, oppure è una leggenda? Ah, non è tanto una leggenda, ma non è così, nel senso che a livello scientifico per anni si è detto che la lingua era suddivisa in zone principali in cui si percepivano i diversi gusti. E non è così? Non è così, e purtroppo c'è ancora molta gente che pensa che sia così. Eh sì, perché ci sono diverse papille gustative che hanno nomi diversi e sembrava fossero deputate al riconoscimento dell'amaro, dell'acido, del salato e del dolce. Si diceva che il dolce si sentiva sulla punta della lingua, l'amaro in fondo alla lingua. In realtà da qualche anno sembra che invece le papille gustative non siano così selettive, ma che ognuna sia in grado di percepire i diversi gusti. Quindi diciamo che su tutta la lingua sono disposte le papille gustative in grado di percepire diversi gusti. Senta, scusi, ma ci sono dei criteri ben precisi per stabilire quale è un gusto e quale no? Cioè il dolce, il salato, va bene, sono facilmente riconoscibili. Ora abbiamo l'umami, ma ci sono delle regole precise per classificare quello che uno chiama gusto? Un gusto è definito tale solo quando a livello scientifico abbiamo un recettore deputato a quella sensazione, al riconoscimento di quella sensazione. Infatti il gusto umami è chiamato gusto solo da 9 anni, dal 2000 esattamente, quando è stato riconosciuto il recettore per quel gusto, mentre prima abbiamo detto che già nel 1908 si era isolata il glutammato monosodico, e quindi la sensazione di umami era già stata definita, però non era ancora stata riconosciuta come gusto, perché ci mancava il recettore deputato al suo riconoscimento. E ora veniamo al test pratico. Voi venerdì avete messo a punto un test sperimentale. Sì, è un test sperimentale molto semplice, che aveva l'obiettivo di avvicinare le persone normali, quindi non solo i ricercatori, a un gusto nuovo, il gusto umami, e soprattutto il nostro obiettivo era insegnare alle persone il significato di questa parola, e abbiamo voluto provare l'abilità delle persone nel riconoscere il gusto umami in alimenti consumati abitualmente da tutti nella vita quotidiana. E che cosa avete fatto? Abbiamo scelto degli snack a base di formaggio, di patate, di mais, e sono i classici snack in commercio, quindi bastoncini, croccantini, estrusi, triangolini di mais. Sì. Di questi prodotti ne abbiamo selezionati 6 che presentavano il gusto umami oppure che non lo presentavano. Mm-hmm. Alcuni snack contenevano glutammato monosodico oppure guanilato di sodico o inosinato di sodico, che sono esaltatori di stabilità e che danno la sensazione umami. Sì. Quindi questi snack dovevano essere riconosciuti come snack con sensazione umami. Okay. Mentre altri non avevano questi esaltatori di sapidità, ma magari avevano degli ingredienti che naturalmente presentano la sensazione umami, come per esempio i croccantini al formaggio o i bastoncini di patate al gusto ketchup, che contenendo pomodoro, abbiamo detto prima che il pomodoro naturalmente sviluppa la sensazione umami, quindi i nostri assaggiatori volontari durante la nostra ricerca, come hanno reagito? Hanno riconosciuto in molti casi gli snack aventi la sensazione umami. Quindi ha avuto successo, insomma. Sì, ha avuto successo. Mi è piaciuto particolarmente considerare che le persone sono in grado di riconoscere il gusto umami anche negli alimenti, una volta che vengono addestrati, perché prima di assaggiare gli snack abbiamo dato loro una soluzione di acqua al glutammato monosodico. Quindi una soluzione, un brodino esattamente, in modo che loro potessero ben percepire questa sensazione umami, memorizzarla e essere in grado poi di riconoscerla negli snack. Probabilmente se avessimo fatto assaggiare gli snack senza dare prima un riferimento standard, sarebbe stato più difficile il test. Però il nostro obiettivo era proprio quello di far capire il significato della parola umami in modo che poi fosse facilmente riconoscibile negli alimenti. Ecco, ci siete riusciti, insomma, dai risultati. Sì, siamo soddisfatti. Benissimo. Dei risultati ottenuti. Va bene, grazie mille per la spiegazione, abbiamo capito. Ci mandi qualche foto dell'evento che avete d'accordo. Organizzato. Grazie e buon lavoro. Grazie a lei, buona serata. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. No, non si corre il rischio di passare per alcolizzati se viene da provare qualche brivido, soprattutto a noi italiani, al pensiero che vi sia del vino senza alcuna gradazione alcolica. Eppure è così, si può fare. Barbara Gallavotti ora vi spiega che ciò che conta del vino, il gusto, rimane. Ascoltiamo. Li viamo negli eti calici che la bellezza infiora e là fuggevol ora si ne priamo nuca. Lo avete riconosciuto? È Placido Domingo nel film La Traviata di Zeffirelli. Brinda, ovviamente all'amore e ovviamente nei panni di Alfredo Germont. Altri tempi, in realtà, quando alla fine delle cene, anziché mettersi al volante, si saliva in carrozza e ci si lasciava trasportare da cavallo e cocchiere fino a casa. Tempi in cui gli incidenti di macchina non esistevano, e neppure i test di tasso alcolico. C'è però la speranza di tornare presto a brindare fino a tardi, magari in compagnia di un amico musulmano osservante. Con un vino particolare, però, senza alcol, ottenuto con una tecnica sviluppata presso i laboratori dell'Enea alla Casaccia. Il processo consente di lasciare al vino il suo caratteristico sapore e il contenuto in preziosissime sostanze antiossidanti. Ci racconta come funziona Michele Adami dell'Enea. Buonasera. Buonasera. Vino dealcolato. Cominciamo a dire che non è una novità. Esiste la birra senza alcol, esiste anche il vino senza alcol ed è prodotto soprattutto negli Stati Uniti e in Germania. Voi però avete inventato un metodo nuovo. Il metodo che noi abbiamo sperimentato è quello che utilizza l'anidride carbonica supercritica, che è praticamente è uno stato particolare del gas, l'anidride carbonica, che consente di solubilizzare la parte alcolica lasciando inalterata tutte le altre caratteristiche del vino. Quindi voi sostanzialmente ottenete dell'alcol sciolto in anidride carbonica? Sì. Che poi riportandoci alle condizioni normali atmosferiche, l'anidride carbonica è gassosa, rilascia l'alcol che è stato estratto e quindi praticamente è privo di qualunque solvente organico. Lei questo vino l'ho assaggiato, perché qui in realtà c'è un certo scetticismo al sentire parlare di vino dealcolato. Le posso solo dire che praticamente quando abbiamo fatto la sperimentazione un collega aveva una cena con amici e ha utilizzato il vino dealcolato come bevanda ed è stato molto apprezzato. Ha passato il test delle cavie, quindi. Esatto, diciamo. Che cosa fate con la parte che contiene l'alcol? Perché voi in qualche modo riuscite a riutilizzarla? Diciamo che la parte alcolica estratta è costituita prevalentemente da alcol etilico, pur essendoci altri tipi di alcol, amilico, isoamilico, oppure altre frazioni di eteri, esteri presenti nel vino, ma principalmente è alcol etilico, che ha anche un suo bouquet. La gradazione di questo estratto si aggira intorno al 60-70%, che può essere direttamente utilizzato anche dalle industrie che utilizzano superalcolici. Ecco, proprio questo fatto che l'alcol estratto sia in qualche modo riutilizzabile per voi è un punto di forza rispetto a dei metodi tradizionali. Mi ha parlato di un metodo che si chiama osmosi inversa, che non ha questo vantaggio. No, l'osmosi inversa non ha la possibilità di avere un estratto con il grado alcolico che riusciamo ad ottenere con l'anidride carbonica supercritica, ma non solo. Il metodo utilizzato consente di trattare il prodotto in ambiente anossico, ossia con CO2, e quindi sono evitate tutte quelle reazioni di ossidazione presenti negli altri metodi. Questo vale anche per il metodo della distillazione? Esatto, perché le ripeto che noi operiamo solo in ambiente con la presenza di CO2 e quindi in assenza di aria. Ci spiega però come fate a essere sicuri che le sostanze antiossidanti rimangano nel vino? Eh, tramite le analisi, si fa le analisi prima e dopo e si vede che la concentrazione di tali sostanze sono inalterate e presenti nel vino dealcolato. Però un prima odato voi lo avete anche semplicemente dal colore? Ah, il colore chiaramente, se l'estratto è perfettamente incolore, qui è proprio, quindi già si nota che la presenza di antociani e tutto resta concentrato nel vino dealcolato. Perché parlo del vino rosso, che è quello che diciamo che ha più qualità sia organolettiche sia nutraceutiche presenti nel vino rosso rispetto a quello bianco. Quindi più sostanze, diciamo, positive per l'organismo. Esatto, diciamo, più positive sia da un punto di vista di protezione del sistema immunitario, cardiovascolare, eccetera. Ma voi questa idea pensate che possa essere commercializzata in tempi brevi? Diciamo che c'è una novità, che dal 1 agosto in Italia e in tutta Europa si è stato dato il via alla commercializzazione del vino dealcolato, però c'è una forte resistenza, specie in Italia, di autorizzare la produzione di questo prodotto. Di conseguenza ci vuole una maturazione, forse con il tempo c'è l'interesse specifico che può mettere in moto tutto il meccanismo di produzione, eccetera. La resistenza è data forse dalle tecniche tradizionali che sono molto radicate? No, che è stato da un ipotetico conflitto con il prodotto vino. Infatti la critica che è rivolta alla Comunità Europea da parte dei produttori, anche dal Ministro delle Politiche Agricole, è che è stato denominato vino dealcolato e la parola vino può risultare in conflitto con la produzione tradizionale di vino e quindi arrecare danno. Io direi che solo quando c'è una mentalità diversa di affrontare questo problema, allora ci sarà anche un interesse industriale a produrlo. Bene, grazie a Michele Adami, buonasera. Buonasera. Che cos'è Agenda 21? Ve lo spieghiamo subito. È comunque un'importante struttura nazionale e non solo per gli interventi ambientali. Ve ne parliamo perché è partito un piano europeo importante per il risparmio energetico con un obiettivo giustamente ambizioso. Ve ne parla adesso Chiara Albicocco. Qualche giorno fa ha compiuto i suoi primi 10 anni di attività. Agenda 21 ha spento le 10 candeline. Per l'occasione è stato siglato il patto dei sindaci che si impegnano a ridurre il debito del paese dovuto all'eccesso di emissioni di CO2. La notizia è di grande attualità perché cade proprio nel momento di svolta, direi mondiale, in cui anche il presidente degli Stati Uniti Barack Obama si schiera con decisione a favore dell'ambiente. E sembra che proprio qualcosa si stia muovendo, non è vero, D'Alessio? Sì, direi di sì. Soprattutto credo che sia diffondendosi la percezione che lavorare per ridurre le emissioni, per limitare i cambiamenti climatici non è soltanto un dovere, ma è anche una straordinaria opportunità di sviluppo, di crescita economica e di formazione di posti di lavoro. Ecco, buonasera a Emilio D'Alessio, che da tanti anni lavora per Agenda 21. Insomma, avete compiuto questi 10 anni di attività. Prima di entrare nel dettaglio del patto che avete stretto gli scorsi giorni, ci spieghi che cos'è Agenda 21 per chi non lo sapesse? L'Agenda 21 è nata a un summit mondiale delle Nazioni Unite del 1992 ed era una lista delle cose da fare nel XXI secolo, insomma l'agenda per il XXI secolo. Questa agenda per il XXI secolo ha una sessione dedicata alle città e ai territori, quindi le cose che si possono fare a livello locale, e noi di questo ci occupiamo, quindi praticamente lavoriamo sullo sviluppo sostenibile e sulla buona conduzione amministrativa delle città, sempre con un occhio appunto all'ambiente, all'ecologia e allo sviluppo. Allora, adesso entriamo nel merito di questo patto che è stato stretto per festeggiare i vostri 10 anni di attività. Insomma, che cosa si sono impegnate a fare le città che hanno deciso di firmarlo, di siglarlo? Allora, questo patto dei sindaci impegna chi lo sottoscrive a darsi da fare per ridurre nel proprio territorio amministrato, che sia una città, che sia una provincia, comunque un'amministrazione locale, le emissioni di CO2 almeno di quanto prevede il patto che hanno sottoscritto i 27 leader europei lo scorso anno a dicembre, lo chiamano patto 20+20+20, quindi ridurre del 20% le emissioni, aumentare del 20% l'energia rinnovabile prodotta e aumentare l'efficienza energetica, cioè in pratica riuscire ad arrivare ai livelli di oggi consumando il 20% di meno. Insomma, un bell'impegno. Quante sono le città in Italia che hanno stretto l'accordo? Sono circa 120, dalle grandi città come Roma e Milano, che sono state tra le prime a sottoscrivere e che dimostrano tra l'altro che non c'è un lato politico di questo accordo, che sono amministrazioni sia di centro-sinistra che di centro-destra. Poi ci sono molte piccole città che anche queste credono che a livello locale si possa fare tantissimo sul clima. 120 non ci sembrano tantissime, ma probabilmente dobbiamo valutare questi numeri in termini relativi. Tanto diciamo che in tutta Europa sono quasi 500, quindi l'Italia ha la lista più lunga dei sottoscrittori. Va detto che sottoscrivere il patto non è una passeggiata, perché il patto è vincolante per chi lo sottoscrive, cioè si chiedono veramente azioni, ci sono verifiche periodiche e chi non produce risultati viene escluso. Senta, che impegni prendono questi sindaci concretamente? Che tipo di attività devono svolgere? Sì, devono appunto cercare di ridurre le emissioni di gas serra, le emissioni di CO2, insomma, di almeno il 20%. Ci faccia qualche esempio di attività concreta. Sicuro, consideriamo intanto che oggi come oggi si calcola che a livello locale ci sia almeno il 20% delle emissioni di tutto il paese che dipendono da scelte fatte dai sindaci o dalle amministrazioni, e consideriamo anche che le città in Italia consumano il 70 o secondo alcuni addirittura l'80% di tutte le emissioni prodotte dal paese, quindi è proprio nei centri urbani che ci sono i problemi. La gente associa questo fatto spesso alla cosa più banale, no? Alla mobilità, quindi ai tubi di scappamento, a queste cose. In realtà sono tantissimi fattori che concorrono, per esempio il ciclo dei rifiuti. Ogni tonnellata di spazzatura che noi trattiamo e processiamo produce una tonnellata .6 di CO2, quindi quando si riduce la quantità di rifiuti, se ne portano di più al riciclo, di meno in discarica, si riducono anche le emissioni nocive. Un altro esempio sono per esempio le emissioni che derivano dalla pubblica illuminazione. Uno non ci pensa, ma in Italia il 2% delle emissioni dipendono dai lampioni stradali. Ecco, ne abbiamo uno in sette abitanti. Ecco, qui la soluzione non è complicatissima, insomma, basterebbe sostituire le lampade delle illuminazioni pubbliche. Sostituirle, forse anche diradarle in qualche caso, certo. E sicuramente anche spegnerle o abbassarne la potenza nelle ore in cui non c'è bisogno di che la città splenda come se fosse Las Vegas. Senza... Sì, certo, soprattutto nelle grandi città. Va bene, grazie D'Alessio, davvero buon lavoro, ci sentiamo al prossimo compleanno. D'accordo, a presto. Grazie. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo alla soluzione del quiz, vi ricordate? Siete sulla Luna, volete scrivere ti amo al vostro fidanzato o fidanzata, là c'è tanta polvere, si può scrivere molto bene, certo bisogna che lui o lei lo veda dalla Terra. Quanto devono essere alte le lettere? Bene, la risposta giusta è 110 km. Vi posso anche spiegare un po' come viene fuori questo numero. Ogni lente, quella di un telescopio come quella di un occhio umano, ha una sua risoluzione minima. Prendete una sbarretta, una matita, va bene, poi dite a qualcuno di allontanarsi da voi tenendola dritta. Dalla punta della matita fino al vostro occhio e poi da qui alla fine della matita c'è un angolo, no? Man mano che la matita si allontana, quest'angolo diminuisce. Fino a che punto però può diminuire prima che il vostro occhio non percepisca più la matita? Ecco, le lenti dei telescopi molto potenti hanno risoluzioni che arrivano, pensate, a un 30 millesimo di grado. L'occhio umano si ferma a un 60esimo. Ecco, a questo punto quindi entra in gioco la distanza dall'oggetto e quindi bisogna calcolare quanto dovrebbe essere grande una matita posta sulla Luna perché sia contenuta in un 60esimo di grado, e da qui viene fuori 110 chilometri. Da questo poi, volendo, si può anche ricavare la dimensione del temperamatite, ma questo lo lascio a voi. Torno giù dal nostro satellite, adesso c'è terra fine lassù, sabbiosa sulla Luna, ma c'è anche tanta sabbia in alcuni luoghi del nostro pianeta. Il problema è che non si estenda con quel processo che si chiama desertificazione. Ve ne parla Sara Occhipinti. Ayehoya, ayehoya, alleluia, ayehoya, alleluia. Ayehoya, ayehoya, alleluia, ayehoya, alleluia. Siamo al Museo di Storia Naturale di Milano, dove sta per essere inaugurata la mostra Io Masai perdo la terra. Il percorso didattico, tra pannelli esplicativi e foto dell'autore Carlo Mari, illustra uno dei problemi ambientali più gravi del nostro tempo, la desertificazione, con le sue molteplici implicazioni che coinvolgono con maggiore impatto le popolazioni del sud del mondo come i Masai. Con noi c'è Giorgio Bardelli, dell'Associazione Didattica Museale, che ci introduce alla conoscenza di questo popolo. Il popolo Masai vive in Africa orientale tra Kenya e Tanzania. La situazione alla quale ci si riferisce nella mostra è quella tipicamente della Tanzania. E in queste zone di savana i Masai conducevano originariamente uno stile di vita tipicamente nomade, da pastori, allevatori di bestiame, bovini in modo particolare. Con la colonizzazione europea, poi soprattutto nel corso dell'Ottocento, il loro stile di vita è forzatamente cambiato e sono diventati sempre più stanziali o semistanziali. Per cui, non avendo più a disposizione i vastissimi territori di pascolo di un tempo, i loro capi di bestiame, le loro mandri, insistono su aree molto piccole. Questo, insieme con il loro modo di vita, che ha subito anche altri tipi di cambiamenti, fa sì che sia cambiato radicalmente il metodo di utilizzo del territorio, con un aggravamento importante dei problemi di desertificazione, che oggi sono causa di gravi disagi per questa popolazione e che li sta portando un po' alla volta verso la povertà. La desertificazione, anche se si è portati a pensare il contrario, non è un fenomeno che riguarda solo l'Africa, ma coinvolge moltissime zone del mondo. Solo in Italia, infatti, devono fare i conti con questa realtà regioni come Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria, Basilicata e parte della Toscana. Certo, gli effetti generati sulle diverse popolazioni non sono affatto paragonabili, come puntualizza Paola Mariani, dell'Istituto Oikos e curatrice della mostra. L'Istituto Oikos è un'organizzazione no profit che si occupa di tutelare la biodiversità e lo sviluppo sostenibile delle risorse naturali come strumenti di lotta alla povertà. C'è da dire prima di tutto che la desertificazione è un problema globale che affligge tutto il pianeta, il nord del mondo e anche il sud del mondo. Ciò che è assolutamente diverso è l'impatto che ha sulle popolazioni. Mentre un abitante nel nord del mondo che vive in zone desertificate, quindi e vive in un paese dove l'economia è ricca, può accedere facilmente alle proprie risorse naturali, attraverso il supermercato, attraverso l'importazione, attraverso l'invio di acqua anche da zone più lontane, un abitante delle steppe Masai dipende direttamente dalle proprie risorse naturali, quindi in un'area desertificata in cui non sono più presenti le risorse primarie per la sopravvivenza come sono l'acqua e il cibo, affliggono notevolmente e minacciano la sopravvivenza degli abitanti, che sono costretti quindi ad emigrare e andare in altre aree, facendoli diventare così dei profughi ambientali. La condizione di povertà in cui si trova la popolazione spinge i Masai a dover faticare molto per procurarsi anche solo le risorse indispensabili per soddisfare i bisogni essenziali. Le donne e i ragazzi soprattutto sono costretti a percorrere chilometri trasportando pesanti taniche colme d'acqua e grossi fasci di legname per il fuoco. Ora la testimonianza di Agnes Elias, giovane donna Masai, ritratta in una delle foto d'autore presenti alla mostra. Nella foto sto trasportando la legna. Leggo un fascio di rami con una corda e lo sorreggo ponendo la corda sulla fronte. È davvero un lavoro doloroso. A volte metto dei vestiti sulla testa per sentire meno lo sfregamento della corda, ma il male è comunque parecchio. Appena caricata la legna, mi dirigo, senza mai fare soste, dalla savana fino a casa, quale che sia la distanza da percorrere. Cerco di non pensare al dolore e magari canto a bassa voce. Cantare è l'unico modo per distrarre la mente e camminare più serena. E proprio il canto ha un ruolo importante nella tradizione Masai, come ci spiega Jen Marin Talwila, ecologa tanzaniana e direttrice di Oikos in Africa orientale. I canti delle donne Masai sono svariati, ma assumono due connotazioni principali. Possono essere delle preghiere rivolte a Dio oppure canti di incoraggiamento a se stesse per sopportare la fatica e il dolore del lavoro quotidiano. Il significato del canto cambia a seconda della condizione e dello stato d'animo in cui la donna si trova in quel momento. Her feeling. Ma quali potrebbero essere a questo punto le strategie da attuare per arginare il problema? Lo chiediamo a Paola Mariani di Oikos. Dunque, le strategie sono tante, diciamo che a livello immediato si tratta di fare dei piccoli progetti di emergenza, come portare ad esempio le risorse che mancano, quindi fare dei pozzi, quindi portare dell'acqua dove è possibile, migliorare le zone che sono coltivate, quindi applicando delle agricolture che siano sostenibili, quindi attraverso delle irrigazioni più pensate, più sostenibili, come ad esempio l'irrigazione goccia a goccia, che permette di utilizzare poca acqua e nello stesso tempo non erode il suolo. A lunga scadenza bisogna fare più un lavoro di sensibilizzazione, di cambio di governance, quindi che siano le stesse istituzioni ad applicare delle strategie di uso del suolo che permettono quindi nella lunga scadenza di poter migliorare le condizioni del territorio. Anche questa volta le storie che avevamo da raccontarvi le avete ascoltate tutte. Ci sentiamo la prossima settimana. Buona serata a tutti e a tutte.